L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Dal legittimo impedimento al caso Morgan, oggi non ci faremo mancare nulla nella nostra prossima ora dell'ottavo giorno, è in fondo il bello del nostro programma che, come sapete, prova a mettere insieme i fatti e i personaggi principali dell'ultima settimana. Poi li centrifughiamo attraverso i servizi già trasmessi nei GR di Radio 24 e le riflessioni di alcuni ospiti che avremo tra poco in studio con noi. E dunque, se guardiamo a quello che è successo da sabato scorso, 30 gennaio, fino a ieri, venerdì 5 febbraio, non possiamo naturalmente lasciare da parte né il provvedimento più discusso, più controverso in questi giorni in Parlamento, né naturalmente quella che è la questione che in fondo, ammettiamola, è sulla bocca di tutti, se ne parla al bar, se ne parla a casa a tavola, se ne parla in ufficio, insomma l'intervista che Morgan, il cantante, ha fatto al mensile Max, la sua ammissione dell'uso di droga e poi con l'esclusione per ora, perché io al momento non ci credo ancora fino in fondo, dal Festival di Sanremo. Dei peccati di Morgan e della sua penitenza pubblica da Vespa parleremo tra poco. Intanto però vi invito già a lasciare i vostri commenti alla nostra mail ottavogiorno@radio24.it. Apriamo il resoconto della nostra settimana invece dalla politica, un altro classico immancabile qui all'ottavo giorno, soprattutto per quella che è la sfera legata alla giustizia e ai processi che coinvolgono Berlusconi. In fondo è ormai dall'inizio di ottobre, cioè da quando è stato bocciato il lodo Alfano, che non si parla d'altro o quasi in Parlamento. Abbiamo visto sfilare in una processione un po' caotica tante leggi attorno appunto a questa spinosa questione dei processi di Berlusconi. L'ultima che è arrivata in aula è il legittimo impedimento, voto finale alla Camera mercoledì, peraltro a pochi giorni da un'apertura rovente segnata anche da livori dell'anno giudiziario. Sentiamo la cronaca da Montecitorio con Andrea Viali. Si è concluso con un lancio di pallette di carta e con cartelli di protesta esposti in aula il voto sul legittimo impedimento a Montecitorio. Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, consente al Premier e ai ministri di saltare le udienze dei processi penali che li riguardano, autocertificando i propri impegni di governo. Contro la legge hanno votato PD e Italia dei Valori, mentre l'UDC ha scelto di astenersi. Per il segretario democratico Bersani, Berlusconi non vuole farsi processare e con le leggi a suo favore sta tenendo bloccato il paese. Se la volete dare l'occasione di fare una discussione in diretta TV sui problemi reali degli italiani, o volete farci sempre parlare di queste leggi che noi rifiutiamo? Contro Berlusconi c'è un attacco permanente da parte della magistratura, la replica di Cicchitto del Popolo delle Libertà, che con la Lega ha votato compatto a favore della legge. Per quanto ci riguarda, questo disegno di legge è un primo tassello di un edificio da ricostruire, quello dello Stato di diritto e della corretta divisione dei poteri. Adesso dobbiamo aspettare naturalmente la decisione finale del Senato sul legittimo impedimento, che dovrebbe così congelare per 18 mesi i processi Mills e Mediaset che riguardano Berlusconi. Tante volte siamo entrati nel merito di questa e di altre leggi, oggi non lo facciamo. A mio avviso comunque rimane quella del legittimo impedimento una soluzione peggiore del lodo Alfano, che però potrebbe tornare in aula con una nuova veste più consona, diciamo, alle esigenze costituzionali, ma sicuramente il legittimo impedimento è anche migliore del processo breve che è stato approvato al Senato, ma ora è fermo ad un binario forse morto della Camera. Nel frattempo si è accesa anche una scintilla su un altro disegno di legge, quello ribattezzato Antipentiti, presentato dalla maggioranza, però è stato lo stesso ministro della giustizia Alfano a rassicurare su questo Napolitano. Sul legittimo impedimento voglio anche precisare il comportamento dell'UDC, che si è astenuto dal voto. Naturalmente la PDL ha votato a favore, PD e Italia dei Valori hanno votato contro. Questo potrebbe essere un segnale anche da leggere in funzione delle regionali. Sulle regionali il mosaico non è ancora sistemato del tutto, penso per esempio alla Campania, dove ci sono incertezze tra PD e Italia dei Valori sulla candidatura dell'ex sindaco di Salerno, De Luca. Usciamo però da questa spirale della giustizia, diamo spazio alla scuola, perché giovedì è stata approvata un'importante riforma voluta fortemente dal ministro Gelmini. Ci spiega tutto Maria Piera Ceci. Si tratta di una riforma epocale. Così ieri il ministro della pubblica istruzione ha presentato la riforma delle scuole superiori, diventata realtà dopo tanto discutere, dopo ripetuti tentativi dei governi che si sono succeduti. E non ha tutti i torti la Gelmini, se pensiamo che passeremo a settembre solo per le prime classi, al momento a 6 licei. quello musicale coreutico e quello delle scienze umane, nuovi di zecca, e a due settori per gli istituti tecnici, economico e tecnologico. Oggi, pensate, siamo a circa 900 indirizzi, una giungla che andava decisamente sfrondata. Ben vengano anche l'ingresso di più ore di matematica, bestia nera del nostro sistema di istruzione, e delle lingue straniere. In quinta, nei licei, un insegnamento verrà impartito in lingua. Davvero una bella cosa. Una svolta la nostra scuola superiore l'aspettava dalla riforma Gentile del 23. Insomma, era ora. Anche se l'opposizione e i sindacati avanzano il sospetto che di svolta epocale si tratti, ma qui di epocale, dicono, c'è solo il taglio di ore di lezione e quindi di investimenti. Insomma, una riforma dettata dalle forbici di Tremonti. Aspettiamo a dirlo, le riforme vanno giudicate sul medio-lungo periodo. A non far niente molte volte si sbaglia forse di più. E poi razionalizzare i costi, soprattutto nella scuola, non è necessariamente un male. L'importante è non lasciare questa riforma abbandonata a se stessa, a presidi disperati perché le loro scuole non ricevono i soldi che lo Stato deve loro e non riescono più a pagare neanche supplenti, a insegnanti che da anni chiedono di lavorare magari un po' di più, ma meglio e meglio retribuiti, a genitori pronti a barattare magari un'ora in meno sui banchi per i propri figli, purché quelle ore le passino con insegnanti qualificati e competenti, che li faccia arrivare all'esame di maturità senza strafalcioni. Insomma, bene questa riforma, ma ora si va avanti con altrettanto coraggio con tutto il resto. L'ottavo giorno. Come preannunciato prima della pausa, mi ha raggiunto in studio Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Allora Carlo è reduce dal viaggio di Berlusconi in Medio Oriente, un viaggio lungo, complicato se non altro perché siamo in una terra complicata. Tra poco parleremo diffusamente della trasferta in Medio Oriente del Premier, però prima devo aprire doverosamente, e mi piace farlo, una parentesi che possiamo ribattezzare intrighi. Tanto siamo in una stagione in cui spesso le foto, le intercettazioni, insomma, pubblicate o meno sui giornali, fanno la differenza anche sul piano politico. Ebbene, in questi giorni abbiamo avuto altre novità in questo calderone che mescola gossip, politica, ricostruzioni dietrologiche anche di fatti lontani. Per esempio, avrete notato martedì in prima pagina sul Corriere della Sera le foto addirittura datate 15 dicembre 1992, foto che erano sparite nel nulla per tanti anni e sono riapparse magicamente in concomitanza con l'uscita di un libro, naturalmente, perché c'è sempre un marketing dietro. Ebbene, si vede Di Pietro, all'epoca PM di punta, il più amato degli italiani di Mani Pulite, insieme a Bruno Contrada, che sempre in quel periodo era uomo di spicco invece del SISDE, e poi un altro agente dei servizi segreti molto vicino alla CIA. Questa è la foto che naturalmente va inquadrata anche nel periodo, perché le date sono importanti. Siamo nei giorni dell'avviso di garanzia Craxi, e il 15 dicembre 92 significa 9 giorni prima dell'arresto di Contrada, e la cosa misteriosa è che poi quel giorno partiranno una serie di telefonate, non si sa bene da chi a chi, per far sparire queste foto che appunto ritornano quasi 20 anni dopo. Ebbene, Di Pietro ha scherzato anche al TG1 definendosi James e Tonino Bond, poi in realtà a microfoni spenti ha risposto male la giornalista che gli ha fatto la domanda sulle foto incriminate. A mio avviso, mi sembra, insomma, la solita tendenza a tirar fuori complotti, burattinai, insomma, non ci accontentiamo della realtà dei fatti. E poi, insomma, Di Pietro, agente della CIA, mi sembra quantomeno pittoresco. In realtà c'è un altro intrigo che è riesploso in questi giorni, e su questo chiamo in causa, come conoscitore dei fatti, Carlo Marroni. Mi riferisco all'intrigo che ruota attorno all'asse Vittorio Feltri, direttore del giornale, e Dino Boffo, ormai ex direttore di Avvenire. I fatti sono noti. Quest'estate Boffo fu costretto a dimettersi dopo un'informativa, una velina si dice in gergo, che venne pubblicata dal giornale appunto quest'estate, però in realtà da quel momento si discute più di quale mano alle spalle di Feltri abbia così indotto la prima pagina del giornale, fatale per Boffo. Ebbene, in questi giorni sono emersi nuovi dettagli. È venuto fuori intanto che c'è stato un pranzo di pace, di riappacificazione tra lo stesso Feltri e Boffo, e poi in realtà è stato fatto il nome di Vian, direttore dell'Osservatore Romano, che sarebbe lui il responsabile di questo complotto, di questo intrigo che riguarda anche le segrete stanze del Vaticano, perché sarebbe stato lui a passare proprio a Feltri il fascicolo su Boffo per volere addirittura della segreteria di Stato. Quindi arriviamo veramente ai vertici più alti, ovvero a Bertone. Allora, ho fatto una parentesi ampissima, adesso parliamo di Berlusconi e Medio Oriente, però su Boffo Feltri i tuoi aggiornamenti, anche se eri in Medio Oriente, hai seguito un po' la vicenda, Carlo Marroni. Sì, assolutamente, questa vicenda è esplosa sui giornali dopo il 23 di gennaio, quando il Foglio, che è stato quello che ha dato un po' il via a tutta la danza delle ricostruzioni, di una ricostruzione che in effetti girava nell'ambiente, ripetiamo, è una ricostruzione, non sappiamo quanto e se è vera. Sicuramente sappiamo che della vicenda se ne sono occupati tutti in Vaticano, e ha messo in luce naturalmente che al di là del Tevere, parliamo qui da Roma, al di là del Tevere c'è lotta interna, questo è un fatto, e sicuramente mette in luce una difficoltà di governo, le correnti, insomma il Papa è in piena salute, ma sappiamo che ci si prepara sempre per i cambi possibili, non del Papa, ma di tutto il potere interno al Vaticano. Ecco, quindi... ma di fronte a questa situazione un po' complessa, in cui si fanno però nomi e cognomi, perché si parla di Vianne e di due Bertone, persone ai vertici. Ratzinger che fa? Che dice? Allora, Ratzinger nulla, naturalmente. Ratzinger, ufficialmente ma anche ufficiosamente, nel senso che no, ufficiosamente si è informato più volte. Sappiamo quasi per certo che di questa vicenda il Papa l'ha sempre seguita da settembre ad oggi, ma il 7 gennaio scorso, quindi meno di un mese fa, incontrò il cardinale Ruini, una visita sorpresa che ha insomma messo in rumore sia dentro il Vaticano sia fuori nella politica italiana, perché insomma questo è stato considerato un po' il rientro di Ruini, che è sempre stato il grande come dire, che ufficialmente sarebbe fuori dei giochi, sarebbe fuori dei giochi, ma è un grandissimo politico, forse il migliore che ha avuto la Chiesa, il migliore, il più efficace, quantomeno più esperto, ecco, il migliore in quel senso, il più abile, perché ha disegnato la Seconda Repubblica praticamente a tavolino molto bene, insomma, dal punto di vista cattolico quantomeno. Ebbene, in questa visita Ruini, che era stato lo storico maestro di Boffo, quindi lo aveva messo direttore di Avvenire tanti anni prima, si dice che abbia edotto, insomma, reso noto al Papa tutte le vicende, gliele abbia raccontate, gli avrà forse anche consegnato un dossier, non si sa, sono tutte chiacchiere. Ruini stesso ha smentito onor del vero, ma le smentite sappiamo. Comunque sia, al di là di questo, di quanto sia vero o falso, il Papa è perfettamente a conoscenza. Però verosimilmente, questo è quello che consta a noi del Sole 24 Ore e anche ad altri giornali, è che non accadrà nulla, non ci sono quindi dei, non ti aspetti terremoti, colpi di scena, gogne di no, che scatteranno, ma un po' perché non è nello stile della Chiesa, difficilmente. Tutti ci possiamo domandare perché si dimise Boffo, ma Boffo fu mollato, diciamolo chiaramente. Boffo non è che ci fu una difesa di Boffo vera, nessuno lo difese, fu a un certo punto, il caso è nato da lì, insomma, la segreteria di Stato, cioè il Vaticano, il governo centrale della Chiesa. Dobbiamo fare un attimo una precisazione: una cosa è la Chiesa italiana, la CEI, e Avvenire appartiene alla CEI, la Chiesa italiana, e il governo centrale della Chiesa mondiale. Il fatto che siano però entrambe a Roma, naturalmente, spesso crea confusione, si intrecciano insomma, il governo centrale della Chiesa non difese Boffo, questo è un dato ormai noto, più di tanto perlomeno, e quindi si dimise, fu sacrificato e lui stesso, insomma, con anche una certa insomma, anche rapidità, perché poi durò una settimana una difesa, ma non durò oltre. Allora, chiudiamo la parentesi intrighi, che devo dire ci appassiona molto, sì. Spero anche il nostro, devo dire, tornano ormai con una certa frequenza. L'anno scorso vi ricordate il caso Williamson? Veramente ce n'è per tutti i gusti. Veniamo allora invece al viaggio di Berlusconi in Medio Oriente, 3 giorni caldissimi, in realtà è partito lunedì, poi si è trattenuto in Medio Oriente fino alla serata di giovedì. E allora, per entrare in sintonia con il viaggio di Berlusconi, riascoltiamo il servizio da Gerusalemme di Virginia Di Marco di giovedì mattina. La guerra di Gaza è stata una giusta reazione di Israele ai missili di Hamas lanciati da Gaza. Lo ha detto ieri mattina il premier Silvio Berlusconi durante un discorso in italiano pronunciato alla Knesset, il Parlamento israeliano. L'intervento del Presidente del Consiglio è stato il momento clou dei 3 giorni del primo vertice bilaterale Italia-Israele, che ha portato alla firma di 9 accordi di cooperazione tra i due paesi. Il discorso di Berlusconi è stato introdotto dal suo omologo Benjamin Netanyahu, che ha raccontato un episodio particolare della vita di Mamma Rosa, la madre del cavaliere, la quale, ha rivelato Bibi, durante la Seconda Guerra Mondiale salvò dall'arresto una giovane ebrea, frapponendosi fra lei e un soldato tedesco, malgrado fosse incinta di 8 mesi. Berlusconi ha preso la parola commosso, ribadendo il suo impegno nella difesa di Israele. Oggi la sicurezza di Israele nei suoi confini e il suo diritto di esistere come Stato ebraico sono per noi italiani una scelta etica e un imperativo morale. Il premier è poi tornato anche sullo spinoso dossier iraniano. Che non è accettabile l'armamento atomico a disposizione di uno Stato i cui leader hanno proclamato apertamente la volontà di distruggere Israele ed hanno negato insieme la Shoah. Nel pomeriggio Berlusconi ha incontrato il leader palestinese Abu Mazen, con lui ha rilanciato l'ipotesi di un piano Marshall per la Cisgiordania, perché, ha dichiarato il capo del governo italiano, solo il benessere può essere garanzia di pace duratura. Allora, faccio notare che sono emersi gli elementi che accompagnano sempre Berlusconi quando va in giro per il mondo. Non sono mancate le polemiche sulla stampa italiana anche quando va lontano dai confini italici. C'è stata una barzelletta alla natività di Betlemme, qualcuno si è indignato, ma forse in questo caso non c'è bisogno di alimentare polemiche sul nulla. Poi da notare invece che con gli israeliani ha giustificato l'attacco di Gaza di un anno fa, mentre con i palestinesi ha poi paragonato il loro dramma alla Shoah, quindi insomma ha fatto anche una piccola giravolta, una piccola contorsione, sapendo che il popolo israeliano non ama proprio chi fa per definizione delle giravolte. Carlo Maroni, vorrei chiederti se questi elementi che ho elencato sono aspetti, diciamo così, superficiali, che nascondono in realtà un contenuto molto più significativo del viaggio, oppure sono elementi di forma che poi diventano inevitabilmente anche sostanza. Insomma, Berlusconi doveva dare la massima adesione dell'Italia, intesa come il suo governo, alla difesa di Israele, all'abbraccio senza condizioni. Dico senza condizioni perché dire giusto attacco, quello a Gaza, ora al di là delle considerazioni che potremmo fare a lungo, definire giusta una guerra di per sé secondo me non è. E poi sappiamo, ci consta anche perché l'ho visto, che la parola giusta quando ha parlato è l'aggiunta successivamente al discorso che era stato distribuito, quindi per dire che ha voluto rafforzare, infatti è stato lungamente applaudito con una standing ovation, insomma. Un capo di governo europeo, non è mai accaduto che alla Knesset avesse, quindi al Parlamento israeliano avesse questo, fosse tributato questo onore. Non ha voluto neanche che ci fosse un'ombra, ecco, diciamo così, su questo fronte, e ha difeso quando Netanyahu, primo ministro israeliano, che ha delle beghe interne piuttosto pesanti, inteso come la moglie che ha, ci sono dei problemi familiari che però quando si tratta di un leader sono sempre problemi pubblici, alla domanda che un israeliano, un giornalista israeliano, ha fatto a Netanyahu, ha risposto Berlusconi dicendo: voi stampa inventate le storielle, per dire quanto questo è tipico del personaggio. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, però tantissima carne al fuoco. Innanzitutto devi raccontarci questa barzelletta natività, visto che c'eri, ha fatto la visita, ed è comunque un elemento di colore significativo. Ma sì, lui rapidamente ha fatto la visita alla Basilica della Natività, guidato dal custode francescano di Terra Santa, il celebre padre Pizzaballa, giovane e bravissimo. L'ha guidato la natività, quando è sceso nella mangiatoia, cioè sotto l'altare, ha detto: anch'io ho fatto un presepio a Palazzo Chigi, per esempio, questo è il primo. E poi quando siamo arrivati nella chiesa, io ero proprio a pochi metri, ma neanche mezzo metro, nella chiesa di Santa Caterina, che è attigua alla natività, insomma, comunque sempre nello stesso complesso, lui ha raccontato una barzelletta dicendo: spero di non essere blasfemo, ha sottolineato, cioè me l'ha raccontata un salesiano, allora i frati scherzano, ha messo le mani avanti, lui poi notoriamente è stato a scuola dai salesiani, le cose che ripete spesso, ha raccontato questa barzelletta, tutti hanno riso, non era oggettivamente come dire, era bizzarra la cosa, ma non era, insomma, nessuno ha visto che c'era della blasfemia, perché se così fosse stato gliel'avrebbero fatto notare, insomma, i francescani in questo non scherzano. Allora, ultima domanda doppia, altre cose che sono emerse da questo viaggio: ha glissato sul muro costruito dagli israeliani? Beh, ha negato praticamente. Ha negato, ecco, questo forse no, certo, insomma, so. Ad una domanda precisa ha detto di non averlo visto, e come fanno ad aver visto? La domanda era molto chiara, gli è stato chiesto da un giornalista italiano, in questo caso della RAI, dice: ma quando è passato al muro, la domanda è stata, perché ad essere precisi, che cosa ha provato? Risposta di Berlusconi, che verosimilmente già conosceva la domanda, perché insomma è un po' prassi che poi queste domande insomma girava nell'aria questa domanda, quindi probabilmente qualcuno gliel'aveva riferita, e lui ha detto: non l'ho visto. E insomma, questo ha creato tra i palestinesi, diciamo, ecco, che ha svicolato. Questo forse proprio perché gli israeliani sappiamo che odiano la parola muro, quindi insomma avrebbe fatto anche un piccola ombra su tutta la visita che si era appena conclusa. Quindi questo però a sottolineare che l'incontro con il presidente palestinese non è andato molto bene, l'incontro è stato piuttosto freddo, e questa frase non ha certo contribuito a migliorare. Davvero un flash in pochissimi secondi, perché nel frattempo l'Iran si è molto arrabbiato con noi per la difesa a spada tratta della politica di Israele da parte di Berlusconi. Una tua considerazione, pensando che naturalmente ci sono anche interessi e soldi in ballo tra noi e l'Iran. Noi eravamo i primi partner commerciali dell'Iran, ora siamo i secondi. Ci abbiamo l'Italia, il sistema Italia ha rimesso 2,5 miliardi di esportazioni, e questa nostra politica ci sta costando molto cara. Beh, tema delicatissimo. L'ottavo giorno. A distanza di una settimana ci ritroviamo a parlare di Fiat, lo abbiamo fatto 7 giorni fa con il collega Andrea Malan, con il quale abbiamo affrontato soprattutto la questione dal punto di vista industriale, perché Fiat, lo sapete benissimo, vuole chiudere, lo ha annunciato da mesi, lo stabilimento siciliano di Termini Imerese. Oggi invece parleremo soprattutto dal punto di vista dei lavoratori, perché mercoledì è stata una giornata importante, c'è stato uno sciopero di tutti gli stabilimenti Fiat in Italia, e tra l'altro la vicenda Fiat in questi giorni si è anche intrecciata ad un altro caso che è salito alla ribalta è quello dell'Alcoa, parliamo di un vero e proprio gigante dell'alluminio, la società americana, il terzo produttore al mondo, che ha due stabilimenti in Italia, uno in Sardegna, l'altro in Veneto, e l'Alcoa vuole chiudere entrambi gli stabilimenti, di fatto lasciando per strada circa 2.000 lavoratori, che sono più o meno quelli che lavorano a Termini Imerese, quindi parliamo naturalmente di cifre importanti in una situazione poi di grossa disoccupazione che affligge purtroppo anche il nostro paese. Parleremo di tutto questo tra poco con Carmine Fotina del Sole 24 Ore. Adesso, per capire bene di cosa stiamo parlando, entriamo nel vivo con questo servizio di Vincenzo Miglietta, che poi è la copertina del GR delle 7 di mercoledì. 3.100 posti a rischio nel gruppo Eutelia, 2.000 all'Alcoa, 1.300 allo stabilimento Fiat di Termini Imerese ed ancora 600 lavoratori del gruppo Saccarifero Iridania. Sono questi i numeri dell'altra faccia della crisi economica, la faccia che esce dalle fredde statistiche ufficiali e scende in piazza per rivendicare il diritto a conservare un lavoro. La piazza in questo caso è quella davanti Palazzo Chigi. Sul tavolo del governo le sorti dell'Alcoa e degli stabilimenti di Portovesme e di Fusina. È rimasta solo questa, boh! Finita questa, non c'è più niente. È quasi disperata la nostra situazione, perché il territorio non offre altro. Tolta l'Alcoa, nella nostra zona non esisterà più nulla, il deserto. È un buon lavoro, quanto guadagnate a fine mese? 1.200-1.300 euro. Cosa ti preoccupa di più, la cassa integrazione o proprio il fermo? Io ho due braccia, due gambe e una testa, voglio lavorare, non voglio essere un cassa integrato a 30 anni, non ho nessuna intenzione di essere un cassa integrato. Un'emergenza economica dunque con forti risvolti sociali e comune a tante realtà produttive, da cui l'impegno del governo, delle imprese, dei sindacati. La posta in gioco è alta e a ricordarlo è stato anche il Santo Padre nell'Angelus di domenica, con l'appello affinché si faccia tutto il possibile per tutelare e far crescere l'occupazione. E lo avete sentito, anche il Papa è intervenuto su questo flagello, che è la disoccupazione che sta colpendo in modo particolare l'Italia, ma direi tutto il mondo. Insomma, siamo alle prese con questa crisi globale e nel suo percorso inevitabilmente si arriva, dopo la finanza colpita, ricorderete Lehman Brothers ormai un anno e mezzo fa, poi c'è stata la crisi della produzione industriale, basta leggere i dati del PIL del 2009, e adesso siamo alla terza fase, diciamo così, che è quella che va a colpire direttamente i lavoratori. Tantissimi posti di lavoro stanno andando in fumo, insomma veniamo da mesi nei quali abbiamo visto molti operai, lavoratori andare anche sui tetti a protestare, e adesso la vicenda di Alcoa di questi giorni, insomma abbiamo visto l'aeroporto di Cagliari occupato, una protesta vivace ma comprensibile naturalmente sotto Palazzo Chigi. Ieri c'è stato anche uno sciopero generale della Sardegna proprio per questa vicenda dell'Alcoa che ha dimensioni gigantesche. Io vorrei chiedere a Carmine Fotina, a cui naturalmente do il buongiorno, collega del Sole 24 Ore, su cosa si sta giocando questa partita di Alcoa, che coinvolge un colosso americano, il governo italiano, naturalmente i sindacati e i 2.000 lavoratori che lavorano in Italia proprio per l'Alcoa. Ma si gioca essenzialmente sui costi dell'energia, un problema, una criticità che da anni caratterizza il sistema industriale italiano e che ha spesso fatto sì che alcune multinazionali rinunciassero a investimenti sul nostro territorio o li ridimensionassero o in qualche modo li mettessero a rischio, come appunto sta accadendo con Alcoa. Alcoa aveva ricevuto dei sussidi appunto per una produzione a costi ridotti, che poi sono stati bocciati dalla Unione Europea con conseguente multa che si aggira intorno ai 300 milioni. Perché ricordiamo per i nostri ascoltatori, in Sardegna, nelle isole, l'energia costa più che nel resto del paese, però proprio per venire incontro alle esigenze anche dell'Alcoa ma di altre aziende, negli anni sono stati varati dei decreti, dei provvedimenti del governo per abbassare questi costi, e si calcola che lo Stato italiano, per venire incontro alle esigenze della sola Alcoa, abbia speso in una decina d'anni circa 900 milioni. E l'Unione Europea li ha definiti aiuti di Stato, ed ora c'è una multa che è piuttosto consistente, che pende sulla testa dell'Alcoa. Quindi questo è stato un po' il motivo per far scoppiare questa grande polemica, con il tentativo in extremis del governo di rimediare con un nuovo provvedimento, con un decreto legge che recentemente è stato anche approvato dal Consiglio dei Ministri e che riduce i costi delle forniture elettriche sulle grandi isole, vale a dire la Sicilia e la Sardegna. Un provvedimento fatto evidentemente soprattutto per Alcoa, che è il caso più clamoroso, ma che per non contraddistinguersi appunto come aiuto di Stato illegittimo è stato stato esteso a tutte le aziende energivore, cioè dei grandi consumatori di energia, sulle due grandi isole. Un provvedimento dichiarato efficace dalla stessa Alcoa, ma non sufficiente probabilmente fino al via libera definitivo da parte di Bruxelles. In sostanza Alcoa dice: questo provvedimento può effettivamente risolvere la situazione, ma noi non riprenderemo la produzione finché la Commissione europea non dà definitivamente e con assoluta certezza il suo via libera. Ma l'Unione Europea quando dovrebbe pronunciarsi su questa vicenda? Tra l'altro in questi giorni Berlusconi ha telefonato anche a Barroso, il presidente dell'UE, proprio per avere, come dire, rassicurazioni sul provvedimento firmato dal governo italiano. L'Unione Europea ha tempi non brevissimi, ma la telefonata tra Berlusconi e Barroso aveva proprio questo scopo: accorciare al massimo l'iter, con un impegno informale abbastanza rassicurante di Barroso, che tuttavia pare al momento non ha del tutto sbloccato la situazione. Significative sono le parole utilizzate ancora appena ieri dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, che con una battuta ha fatto un po' capire il clima ancora di tensione che esiste. Pittsburgh, ha detto, Pittsburgh, ricordiamolo, è la sede americana dell'Alcoa, è una parola che in questi giorni non è molto gradita, significativo appunto di questa tensione persistente, purtroppo. Anche perché tra l'altro il responsabile italiano di Alcoa in questi giorni è in America proprio per cercare di far quadrare così, di trovare la quadratura del cerchio, ma nel frattempo ci hai spiegato che i tempi dell'Unione Europea sono ancora piuttosto lunghi rispetto all'emergenza che si sta vivendo in Sardegna. E tra l'altro lunedì è previsto un nuovo incontro, quindi arriviamo all'8 febbraio, che potrebbe essere il giorno dello spegnimento di fatto dell'Alcoa di Portovesme in Sardegna, e esperti, insomma, addetti ai lavori ci hanno spiegato che spegnere quella fabbrica, quell'industria, di fatto ne sancirebbe la condanna a morte, perché poi riavviarla avrebbe dei costi talmente alti che nessuno sarebbe disposto a investire più sull'Alcoa. Quindi veramente siamo quasi alla stretta finale. A tuo avviso cosa può succedere lunedì e a questo punto nelle prossime settimane? Ma lunedì potrebbe essere risolutivo un segnale ufficiale che in qualche modo arrivi dall'Unione Europea, o comunque un mezzo passo indietro da parte dell'Alcoa, che potrebbe accettare di procrastinare in qualche modo la sua decisione in attesa di un segnale appunto definitivo. Di certo il problema che tu ponevi è reale, che caratterizza un po' le grandi industrie dei metalli, industrie siderurgiche, industrie dell'alluminio appunto, che hanno dei cicli di produzione ad altissima intensità energetica particolarmente complicati, e lo spegnimento di alcuni stabilimenti richiede poi del tempo e delle difficoltà oggettive e tecniche per ripartire. È anche vero, va detto, che anche da fonti sindacali sono emerse in questi ultimi giorni indiscrezioni su possibili nuovi investitori, soprattutto stranieri, che sarebbero, tra cui anche una società araba, interessata in qualche modo a rilevare lo stabilimento. Bisogna però ovviamente valutare la consistenza di queste teoriche offerte prima di dare anche delle false speranze in qualche modo ai lavoratori. Allora veniamo invece alla Fiat, altro casus belli di questa settimana. La notizia più importante di questi giorni, a parte lo sciopero che si è celebrato mercoledì 3 febbraio negli stabilimenti italiani della Fiat, è che il governo sembra pronto a non rinnovare più gli incentivi al settore dell'auto, e la Fiat d'altra parte sembra anche pronta a sopportare questo sacrificio. Naturalmente in cambio vuole avere mano libera sul territorio italiano, e quindi nello specifico poter chiudere Termini Imerese come vorrebbe nel 2011. Ieri sul Corriere della Sera Massimo Mucchetti ha usato parole chiarissime, emblematiche, che direi meritano di essere lette, cioè ha detto: la sequenza degli scambi corporativi tra il più grande gruppo industriale italiano e lo Stato interventista sembra interrompersi. Rimane questo sembra perché naturalmente la partita non è affatto chiusa. Sentiamo però un servizio di ieri mattina su questo di Elisabetta Fiorito. Torino e Roma, Fiat e Palazzo Chigi, due destini molto spesso incrociati, ma che da ieri sembrano divergere. Al centro della questione gli incentivi per le auto, sullo sfondo la chiusura dello stabilimento siciliano di Termini Imerese, una chiusura che non piace al governo, ma che viene ancora una volta confermata da Fiat. L'attenzione si sposta così sugli incentivi e il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, lancia una stoccata al Lingotto. Gli incentivi per il settore auto, noi stavamo esaminando la possibilità di rinnovarli, come lei ha visto il principale produttore italiano, la Fiat, pare non sia interessato ad averli. Ma da parte degli imprenditori risponde il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Io credo che bisogna distinguere un sostegno all'economia, che ripeto serve a tutti i settori che soffrono, dal problema di alcuni, di uno stabilimento, nello specifico se parliamo di Fiat, che è Termini Imerese, che è uno stabilimento che comunque per motivi di vario tipo non è efficiente. E l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, replica: più che incentivi serve una politica industriale per l'auto, rinnovare i bonus non farebbe altro che rimandare il problema alla prossima scadenza. E proprio ieri c'è stato l'ennesimo incontro tra le parti in causa, governo, Fiat, proprio per discutere degli incentivi. C'è questa disputa aperta, anche ideologica se vogliamo, che potrebbe segnare una svolta nell'economia del nostro paese. E poi c'è naturalmente da discutere anche del destino di Termini Imerese. In un minuto vorrei chiedere, proprio per chiudere, Carmine, a te un parere. Non hai la palla di vetro, però insomma, che cosa prevedi per il futuro sia sul versante incentivi sia su quello di Termini Imerese in Sicilia? Beh, non è ovviamente facile, diciamo che c'è un appuntamento importante che è il vertice dei ministri europei dell'industria l'8 e il 9 febbraio in Spagna, a San Sebastiano, che potrebbe dare delle indicazioni importanti. Già nei giorni immediatamente seguenti potrebbe esserci un annuncio ufficiale da parte del governo per il sì o per il no, e probabilmente, viste le ultime dichiarazioni e il livello di tensione, è probabile che si opti per una soluzione negativa, cioè il non rinnovo degli incentivi, almeno allo stato attuale. Cosa che tra l'altro consentirebbe di concentrare risorse su altri settori industriali che stanno richiedendo aiuti ai consumi. Un tuo giudizio flash, chi sostiene che pagare tra virgolette il dazio oggi di Termini Imerese, quindi comunque sacrificare, anche se è una bella parola, 2000 operai, 2000 dipendenti a Termini Imerese, per poi però avere, diciamo, una politica anche industriale da parte del governo più di ampio respiro e più corretta per il futuro, secondo te è un'impostazione giusta del problema? E credo che al momento c'è da fare appunto i conti con questa impostazione. Bisogna capire che anche le scelte sono diventate globali, la Fiat non è più quella di qualche decennio fa e bisogna fare i conti con situazioni del tutto nuove, quindi. E quindi vedremo che succederà sicuramente se questo meccanismo di incentivi in cambio di una presenza sul territorio nazionale salterà. Vedremo una Fiat magari più proiettata verso l'America con Chrysler e verso il Brasile. Grazie a Carmine Fotina. Grazie del Sole 24 Ore. L'ottavo giorno. Ci siamo lasciati con la Fiat pochi minuti fa, restiamo comunque nel mondo delle auto perché parliamo di un altro colosso delle quattro ruote, anzi della prima azienda al mondo, ovvero la Toyota. Sentite un po' cosa sta accadendo alla casa giapponese in questo servizio di Valentina Furlanetto. Sembra si tratti di un banale problema di tappettino che, disegnato male e realizzato peggio, può bloccare l'acceleratore. Un difetto marginale, ma che può rivelarsi fatale, come è già accaduto in California e altrove, sotto accusa in particolare il modello ibrido Toyota Prius. Così il primo produttore d'auto del mondo, che ha fondato il suo primato sulla qualità, si trova ora a fronteggiare una crisi di credibilità non da poco. Dopo aver ricevuto oltre 100 denunce di problemi da parte di automobilisti americani, il governo americano ha aperto un'inchiesta, mentre in Colorado è stata avviata anche una causa collettiva. Toyota è accusata in questo caso di aver tenuto nascosto per molti anni il guasto all'acceleratore. Ma nonostante le cattive notizie, la casa automobilistica giapponese ha registrato ieri dati trimestrali oltre le attese, al punto che ha rivisto a rialzo le stime sull'intero esercizio, pur dovendo fronteggiare il ritiro di 8 milioni di auto. Ma i guai non riguardano solo Toyota. Ieri sera anche Ford ha ammesso di aver problemi con i freni di alcune vetture ibride e ha annunciato che aggiusterà 17.600 Mercury Milan e Ford Fusion, anche se ha detto non ci sono rischi per chi è il volante. E adesso veniamo alla situazione della nostra vecchia cara Europa. La Banca Centrale Europea non è mai troppo tenera di questi tempi ed è giusto che sia così. E sentite allora questo bilancio tracciato proprio mercoledì l'ultimo dalla BCE con Cristina Carpinelli. Quella che stiamo vivendo è una ripresa accidentata e fragile. La definisce così il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet. In questo senso, un peso importante è determinato dalla crisi in Grecia. Ieri la Commissione europea ha approvato il piano di austerità greco, ma ha anche denunciato Atene alla Corte di giustizia europea per aver falsificato i conti pubblici. Bruxelles ha imposto al governo greco nuovi tagli alla spesa e riforme strutturali. Il timore è ora che la crisi greca possa allargarsi anche a Spagna e Portogallo, come ha avvertito sentito il commissario europeo agli affari economici, Joaquín Almunia. Ieri il Portogallo ha dovuto ridurre di 2/5 un prestito obbligazionario perché avrebbe dovuto pagare interessi troppo alti. E poi c'è il dato tedesco. La Germania, prima economia di Eurolandia, potrebbe essere tornata a una crescita stagnante. La disoccupazione, oltre il 10% in Europa, pesa sui consumi, esangui anche a dicembre. Forse avrete notato che la BCE nel suo bollettino non ha fatto menzione della Spagna, perché le notizie preoccupanti, inquietanti da Madrid sono arrivate esattamente il giorno dopo, ovvero giovedì. C'è davvero da avere paura. Ce le ha raccolte questo servizio di Sergio Nava. Poi riascoltiamo anche il commento di ieri mattina da Madrid di Michele Calcaterra. La borsa ha vivido hoy su peor día de los últimos 14 meses. Madrid trascina a ribasso tutte le principali piazze continentali nella giornata peggiore per l'Ibex dal novembre 2008, ma allora la bufera arrivava da una Wall Street piegata dalla crisi finanziaria americana. Meno 5,94% ieri l'indice borsistico iberico, finito nell'occhio del ciclone in una settimana che ha visto Bruxelles imporre ad Atene una vera e propria camicia di forze in materia di politica economica e che ha registrato il clamoroso fallimento di un'asta di bond portoghesi. È dunque il Club Med dell'Eurozona a trovarsi in piena tempesta finanziaria, con la Spagna che al momento paga le conseguenze peggiori. Sull'onda dei dati del debito, previsto il rialzo fino a 74% del PIL nel 2012, ieri un'ondata di vendite ha colpito le imprese costruttrici, su tutte Ferrovial, meno 11%, e gli istituti bancari. In prima linea Banco Santander, meno 9,4% nonostante i buoni utili trimestrali, e BBVA, meno 7,5%. Il problema resta insomma la situazione dei conti pubblici, minati dal doppio uppercut della recessione e dello scoppio della bolla immobiliare. Gli analisti cominciano intanto a temere pure un ribasso del rating paese. Giornata nera ieri anche per la borsa portoghese, in calo di quasi il 5%, male Milano, meno 3,34% il FTSE All Share, e intanto ci si chiede chi sarà il prossimo. La Spagna è alle corde, l'economia non gira, la disoccupazione è al 20%, i conti pubblici fanno acqua da tutte le parti. E la speculazione internazionale colpisce duro sia sulla borsa sia sull'emissione di titoli di Stato. Il banchiere Emilio Botín, patron del Banco Santander, dice che il paese è forte e solido, insomma non è la Grecia. Botín ha probabilmente ragione, anche se la Spagna sta vivendo una profonda crisi di credibilità dovuta a una politica economica del premier Zapatero poco convincente. Le riforme delle pensioni e del lavoro proposte in questi giorni dal governo, oltre al taglio di 50 miliardi della spesa pubblica in 4 anni, appaiono infatti tardive e non sufficienti a dare una scossa. E siamo arrivati alla fine, dulcis in fundo, l'avevo promesso proprio all'inizio, all'apertura dell'ottavo giorno. Dobbiamo parlare del caso Morgan, il cantante, non so più se ancora o ex, dei Blu Vertigo, uno tra l'altro dei giudici il più apprezzato forse della trasmissione di Rai 2 X Factor. Ebbene, ormai i fatti sono noti. Morgan ha rilasciato un'intervista al mensile Max che è uscito in questi giorni, che ha subito creato grande scalpore, è diventata di fatto la notizia e l'intervista più chiacchierata della settimana, perché lui alla giornalista di Max ha ammesso di aver usato e di fare ancora uso di droga. Nell'intervista poi è arrivato anche a fare una sorta di apologia della droga, e così immediatamente sono scattate su Morgan le mannaie del moralismo, della politica, ma anche forse del pensare comune, della RAI e del Festival di Sanremo, che immediatamente lo ha escluso dalla gara, anche se io, come ho detto all'inizio, non credo fino in fondo a questa soluzione. Credo che in un modo o nell'altro Morgan rispunterà fuori e sarà sul palco dell'Ariston. Giovedì, tra l'altro, Morgan ha fatto atto pubblico di contrizione, insomma una penitenza pubblica in esclusiva, peraltro, dal salotto di Porta a Porta con Bruno Vespa. Sentiamo i dettagli con Marta Cagnola. Allora, io ci tenevo tantissimo a fare Sanremo, ma a questo punto chi se ne frega? Allora, io non ci voglio più andare a Sanremo, ok? E così è Morgan a chiudere l'ultima possibilità di partecipare a Sanremo. Lo ha fatto nello studio di Porta a Porta, ma da Bruno Vespa Morgan ha anche detto la sua verità. Non sono un mostro che fa apologia della droga. Non amo essere associato a coloro i quali parlano dello sballo. Io ho parlato del mio problema personale, io ho parlato della mia miseria. Per quella che potrebbe sembrare una storia di canzonette si è mossa pure la politica. Diamogli una possibilità, aveva chiesto Pierluigi Bersani, mentre il ministro della gioventù, Giorgia Meloni, si era detta ferma sull'idea che il cantante abbia avuto un approccio troppo leggero su un tema troppo pesante. Solidarietà dai colleghi Claudia Mori, Pupo e Eugenio Finardi, persino Vasco Rossi. In ogni caso, a 10 giorni dall'inizio del festival, c'è ancora tempo per le sorprese. E insomma, l'avete sentito, sono entrate in gioco anche molte cose, molti fattori in questa vicenda. Direi da un lato sicuramente il narcisismo di Morgan, le sue debolezze che ha ammesso anche con una certa umanità, forse c'è anche una buona dose di distrazione nel fare l'intervista e chissà anche un pizzico di furbizia dopo nel gestire la polemica successiva. Di sicuro però c'è una cosa che non ho gradito, non ho accettato, lo dico chiaramente, da un ospite che ho sentito intervenire giovedì da Vespa, e cioè che la colpa sarebbe anche di Max che ha pubblicato l'intervista. Insomma, l'intervista è stata registrata e quindi se un giornalista non travisa le parole dette, vedo poche colpe per lui. Qui voglio fare così una difesa della categoria. Magari si può parlare di cinismo o di altre cose, ma direi che di colpe non ce ne sono. Eventualmente sono tutte di chi certe cose le dice e non certo di chi le riporta poi sui giornali. Detto ciò, mi fermo con quelle che sono le parole che invece ha scritto ieri sul Corriere della Sera Aldo Grasso, che vanno sottoscritte in pieno, direi. Grasso scrive: mai avremmo immaginato che il Festival di Sanremo sarebbe diventato la misura etica del paese. Povera Italia è il caso di dire. Mi fermo qui, ottavo giorno at radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 9. Naturalmente, per chi vuole, siamo sempre sul sito www.radio24.it.